Federico Ferrone, co-regista del documentario Il treno va a Mosca. Ci sono, come state? Bene, tu intanto benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie. Per quanto riguarda il documentario, è uscito in questi giorni in DVD, ne avevamo già parlato nei mesi scorsi, raccontalo un po' a chi ci ascolta, Federico. Senti, brevemente, un film che nasce dalla scoperta, la ricerca di film amatoriali girati da un gruppo di amici tra gli anni 50 e 60, militanti comunisti nella Romagna allora rossissima, quindi è la storia della loro vita, in particolare di un viaggio a Mosca del 57, dove vanno carichi di sogni, speranze e una cinepresa e ne ritornano un po' più disillusi, diciamo, non totalmente, ma insomma un po' un racconto di formazione di tre comunisti emiliano romagnoli negli anni 50, tutto fatto con i loro film che erano appunto conservati a Home Movies, che è l'archivio nazionale dei film di famiglia, e poi rimontato da noi insieme alla montatrice Sarah Geyer. Sicuramente la forza delle immagini è grande, nel senso, al di là del racconto, è proprio fondamentale per fare un racconto, lo fa già di per sé un'immagine d'archivio. Sì, noi insomma quando ci hanno chiesto abbiamo sempre un po' detto che piuttosto che affidarci alle parole dei testimoni, a cui pure siamo un po' affidati, abbiamo voluto soprattutto ricostruirlo con il loro sguardo cinematoriale di allora. Forse la originalità è proprio questa, nel senso, non cercare di delle immagini di copertura per avvalorare una tesi o illustrarla, ma proprio partire dalle immagini stesse. Comunque, al di là di tutto quello poi che è successo negli anni successivi, uno sguardo così originale, dal basso, appassionato, è forse la vera originalità del film. Insomma, mente meno di quanto può mentire la parola, la memoria o lo sguardo cinematografico di un militante di quegli anni. Che ritratto emerge proprio di quel periodo storico in quel luogo particolare che è l'Emilia Romagna e del legame con un ideale e una realtà come è stata poi quella dell'Unione Sovietica? Ma l'immagine che emerge è un po' quella che ci ha un po' motivato a fare il film, nel senso che emerge quella un'epoca di una grandissima speranza per il futuro. Comunque la storia inizia che da poco finita la seconda guerra mondiale, c'è una grande speranza anche di un mondo nuovo, di un mondo totalmente diverso, migliore, anche forse ingenuo se vogliamo, però veramente molto diversa dalla realtà in cui viviamo noi che abbiamo fatto il film. Quindi un po' questa è la cosa che emerge e che fa un po' impressione. Sono passati 50 anni, sembra che ne siano passati forse 1000. Sull'Unione Sovietica in realtà è, vabbè, inevitabilmente più che una delusione assoluta, proprio ovviamente non hanno il tempo di andare a vedere i gulag e di penetrare a fondo gli orrori della realtà sovietica, semplicemente partono con l'idea di un paese perfetto, un paese dei sogni dove tutti lavorano veloci, gli uomini e le donne, e si ritrovano un paese con un sacco di problemi. Quindi in quel senso, più che una delusione profonda, è un racconto di formazione, insomma, della scoperta di una normalità che comunque ti obbliga un po' a riscendere sulla terra e a fare i conti con la realtà. Parlando con i protagonisti oggi, quali sono le loro considerazioni? Guarda, allora, probabilmente in realtà purtroppo uno è morto durante la lavorazione del film, quindi ha contribuito solo con un po' di interviste preparatorie sui film. Chi in realtà è sopravvissuto alla grande è Sauro Ravaglia, che è il protagonista, che si è esaltato a fare il film, ci ha anche accompagnato a presentarlo togliendoci poi la parola, il palcoscenico. In realtà lui stesso diceva, vabbè, insomma, io ho fatto quei film, me li ero quasi un po' dimenticati e aspettavo qualcuno come voi che riportasse un po' alla luce questa realtà. Lui in questo momento è in giro per il mondo, ha 80 anni, continua a viaggiare, quindi dal suo punto di vista in un certo senso il grande lascito di quel viaggio è stato la scoperta che si poteva viaggiare in giro per il mondo, che si poteva filmare, ed è una cosa che lui continua a fare anche oggi a 80 anni. Com'è stata l'esperienza del documentario in giro per festival? Che tipo di reazioni ha suscitato? Abbiamo cominciato andando in concorso proprio a Torino, al Festival di Torino, in concorso ufficiale, nel senso non quello documentario, quello cinematografico, quindi è stato un inizio, insomma, una forte esposizione. Poi abbiamo anche proprio voluto cercare, insomma, nel nostro piccolo di portarlo anche in sala, quindi da maggio in poi abbiamo proprio fatto un giro per le sale seguendolo molto, sia io che Michele, l'altro regista, che Sauro stesso, il protagonista, con l'idea proprio di avere un'esposizione col pubblico e poter parlare anche personalmente con le persone che lo vedevano, una cosa che all'inizio del progetto ci sembrava impossibile. E l'abbiamo portato abbastanza in giro anche in Europa dell'Est, siamo stati in Iran, in Brasile, in Russia, in ogni paese ha una reazione un po' diversa. Per esempio, per dirti, in Europa dell'Est sono quasi un po' delusi dal fatto che la Russia non sia così terrificante, orribile come si aspettavano qualcosa un po' di più. Però tutti, diciamo, riescono a cogliere anche con quel lato universale, che è quello di, appunto, ti ripeto, di un gruppo di persone, di cinematori, che tra l'altro sono autori di immagini strepitose, straordinarie, che mai ti aspetteresti, e racconto, appunto, di formazione di dei giovani che partono per la prima volta da un paesino e vanno nel paese sognato e ne tornano più adulti. Comunque alla fine direi che finenti li abbiamo fatti tutti, quindi in qualche modo il film nel suo piccolo è riuscito ad arrivare. Sempre per chi ci ascolta, nel viaggio che fecero i protagonisti reali di questa storia, che luoghi toccarono? Era un viaggio, in realtà innanzitutto c'è proprio il viaggio stesso, nel senso che in treno ci volevano 5 giorni e basta. Sì. Quindi ci fu una partenza estiva in questi treni vecchio stile, partirono da Venezia, passarono da Vienna, poi dovettero proseguire verso la Cecoslovacchia, l'allora Cecoslovacchia, un pezzo dell'attuale Ucraina, che ovviamente allora era l'Unione Sovietica, arrivarono a Mosca e in buona parte dovettero ovviamente seguire il protocollo, quindi celebrazioni, parate, varie feste. In parte riuscirono anche, da un po' l'originalità di alcune parti del film, riuscirono anche un po' a staccarsi, quindi visitarono anche il centro di Mosca, delle zone un po' più anche degradate, con delle baracche che riuscirono a filmare. Fondamentalmente poi però, insomma, fecero il giro di Mosca, la città di Mosca, e molti di loro in realtà fino a molti anni dopo non avrebbero avuto altre esperienze al di fuori della loro regione, quindi immaginate di partire da un paesino della Romagna e andare a Mosca con 150.000 persone di tutto il mondo. Forse una cosa che oggi non ha grossi paragoni possibili per il tipo di paese che siamo diventati, insomma. In chiusura diamo i riferimenti internet per sapere di più su questo documentario? Sì, il treno va a mosca.it, c'è un sito, c'è una pagina Facebook, adesso c'è anche un DVD se lo volete, è disponibile finalmente. Federico, io ti ringrazio, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie, un abbraccio e auguri. Auguri. Saluto a tutti, ciao. Ciao.